dagli studi di Radio Panorama, Andrea Massaro, Antonio Panzica e Alessandro Montemagno presentano L'Onda in Onda! E torniamo in questa puntata, sempre dagli studi di Radio Panorama, dopo una settimana che avevamo concluso l'esperienza dell'Onda in Onda. Torniamo, come avevo anticipato, con una delle due puntate speciali che vanno in onda in forma ridotta, come diceva Luttazzi, per venire incontro alle vostre facoltà mentali. Ma cosa è successo? Abbiamo delle novità, nel senso che abbiamo due ospiti da intervistare per la nostra rassegna Indie Rock, e l'ospite di oggi che andremo a intervistare fra pochi minuti, non appena lanceremo la sigla, il primo pezzo di questa puntata, è Herman Medrano, che è un rapper che ha fatto recentemente il nuovo album No Se Conossemo, e ha fatto una canzone, il singolo, con la featuring di Caparezza, e quindi andremo a sentire cosa avrà lui da dirci. Ma invece, dato che in questa settimana si sta svolgendo a Palermo il Pride nazionale, la manifestazione indetta dall'Arcigliedo, tutte le sigle LGBT, dell'associazione LGBT per i diritti degli omosessuali, e in realtà di chiunque abbia una diversità ancora in questo paese, si sta svolgendo a Palermo il Pride nazionale, e sarà ospite nella serata conclusiva Immanuel Casto. Lo vedremo, lo sentiremo la settimana prossima qui dagli studi dell'Onda in Onda. Ma per chi volesse invece vederlo dal vivo il 23, chiaramente, può andare direttamente a Palermo ai cantieri culturali della Zisa a vederlo dal vivo. Inoltre ricordiamo che da oggi, anzi annunciamo e ricordiamo per chi non ci avesse seguito su Facebook, che siamo raggiungibili all'indirizzo www.radiopanorama.it da pochi giorni, e continua a funzionare ovviamente radiopanorama.info. Potete vederci e ascoltarci in streaming dal sito qualora vi colleghiate, e potete ascoltarci in streaming dai vostri tablet o dai vostri smartphone con l'applicazione TuneIn, e poi raggiungere l'Onda in Onda su Facebook all'indirizzo facebook.com/l'Onda in Onda, oppure su Twitter twitter.com/Onda in Onda, questa volta senza la L. Bene, abbiamo detto tutto, no, sms 380 76 90 204, ma ovviamente ripeteremo tutti questi indirizzi ai nostri ospiti più avanti nel corso della puntata, che durerà, come abbiamo detto, un po' meno, soltanto un'ora, e quindi non possiamo che iniziare subito con la nostra sigla. A cavallo di quest'onda, spallottato da sfonda a sfonda, seguendo un'altra volta la grande onda che ritorna. A cavallo di quest'onda, spallottato da sfonda a sfonda, seguendo un'altra volta la grande onda che ritorna. Onda in onda, pombo, clap, chiodo, chiappiamo, se va, chiamare! 1, 2, 3, 4! Noi siamo i giovani, giovani più giovani. Tornati in diretta per chi si fosse perso l'anteprima, siete sull'Onda in Onda, sempre agli studi di Radio Panorama. Io sono Andrea, dall'altra parte del vetro c'è Bummo, il nostro caro fedele regista. Come stai, Bummo? Sempre bene. C'è caldo? Sì, abbastanza. Molto. Eravamo a mare con gli ombrelloni, le tovaglie. E siamo tornati in radio. Ti ricordi qualcuno che aveva detto che questo sarebbe stato un anno senza estate? È un deficiente, sì, questo. Proprio, veramente un deficiente. Sì, sì. È un anno senza tutti a pubblicare il link. Avete visto l'anno detto? autunno, un anno autunno. Sempre autunno, due giorni, pum, 40 gradi, vabbè, insomma, che possiamo fare? Al solito, insomma, cioè non è che ogni anno, insomma, è così. Però, vabbè, anche quest'anno, l'anno scorso mi ricordo ce ne sono stati 43 più o meno, però, vabbè, insomma, ce lo siamo beccato anche quest'anno. Allora, Herman Medrano sarà con noi in collegamento fra pochissimi minuti. Per chi si fosse perso l'anteprima, è un rapper che ha fatto questo nuovo album, No Se Conossemo, e il singolo è Super Ebete in featuring con Caparezza, lo sentiremo fra poco, quindi rimanete con noi subito dopo il primo pezzo che andiamo a lanciare esattamente adesso, Fabri Fibra. Allora, io non ho mai detto nulla di esatto, ma fate bene attenzione al ritornello di questa canzone, attenzione. Io che non ho mai detto nulla di esatto, ti prego raffammi raccontare sto fatto. Io che non ho mai detto nulla di esatto, ti prego raffammi raccontare, fammi raccontare. La testa mia dove la sbatto, da nervoso qui divento matto, e se la giornata mi affanna, mi rullo, mi accendo, mi fumo una gamma Arianna. A casa mia un giorno è successo che fumavamo vicino all'ingresso, e all'improvviso qualcuno alla porta bussò e gridò: polizia, apri la porta. E la pula bussò con gli occhiali da sole, e la pula bussò, mi si mette male, fammi entrare. Lui rispose di no, certo che no, meglio di no. E la pula bussò alle porte del buio, e la pula bussò, mi si mette male, fammi entrare. Lui rispose di no, certo che no, meglio di no. E non ho mai detto nulla di esatto, ti prego ora fammi raccontare sto fatto. Io che non ho mai detto nulla di esatto, ti prego ora fammi raccontare, fammi raccontare. Oggi in questura si parla di questo, che hanno arrestato mio cugino Ernesto. Sembrava il più onesto, ma sotto l'ombrello l'hanno visto che fumava uno spinetto, sì, quello. Poi in cucina, parlando con mamma, le spiegavo l'effetto che mi fa Marianna. Ma all'improvviso qualcuno alla porta arrivò e gridò: polizia, apri la porta o no? E la pula bussò con gli occhiali da sole, e la pula bussò, mi si mette male, fammi entrare. Lui rispose di no, certo che no, meglio di no. E la pula bussò alle porte del buio, e la pula bussò, mi si mette male, fammi entrare. Lui rispose di no, certo che no, meglio di no. Ciao ragazzina, che fai con la cartina? Lo sai che ti inquina, e se fumi invecchi prima, questa gente ti rovina, perché puzza di cantina. Qui la gente è di lusso, flippa la cocaina. Sotto sotto sappiamo, se fai certe feste, come VIP chiusi in casa sempre in sottoveste, c'è sempre qualcuno che finisce per sentirsi male. Polizia, portatela all'ospedale. E la pula bussò con gli occhiali da sole, e la pula bussò, mi si mette male, fammi entrare. Lui rispose di no, certo che no, meglio di no. E la pula bussò alle porte del buio, e la pula bussò, qui si mette male, fammi entrare. Lui rispose di no, certo che no, meglio di no. E non ho mai fatto una canna corta, speriamo non bussi più nessuno alla porta. La gente di notte sai come si comporta, la faccia di giorno poi sembra distorta e sconvolta. Quartiere, sui muri c'è scritto: si arriva di notte, la pula sei fritto. Ma all'improvviso qualcuno alla porta arrivò e gridò: polizia, apri la porta o no? E la pula bussò con gli occhiali da sole, e la pula bussò, mi si mette male, fammi entrare. Lui rispose di no, certo che no, meglio di no. E la pula bussò alle porte del buio, e la pula bussò, qui si mette male, fammi entrare. Lui rispose di no, certo che no, meglio di no. E siete sempre sull'Onda in Onda su Radio Panorama, e come vi abbiamo annunciato abbiamo in diretta con noi Herman Medrano. Ciao Herman, come stai? Tutto bene, ciao ragazzi. Ciao ciao ciao. Senti Herman, noi non se conossemo, possiamo dirlo, no? È vero, è vero. Quindi piacere. Allora, senti Herman, da dove ci chiami intanto? Cioè, da dove ti abbiamo chiamato in realtà? Dove sei? Beh, io sono zona di Venezia. non sono della città, ma sono della terraferma. No, dico, quindi... sappiamo, in questo momento sei a Venezia, quindi sei a casa. Sì, provincia. Ah, va bene, perfetto. Perfetto, allora Herman, parlaci di questo album No se conoscemo. No se conoscemo significa appunto non ci conosciamo, come tu ben hai detto, effettivamente non ci conosciamo, ma non conosciamo la gente che abbiamo proprio sotto mano, non li conosciamo in realtà. Anche quando siamo amici su Facebook, diciamo. No, beh, tanto meno proprio, quelli che sono su Facebook neanche magari li vedrai mai, tra l'altro. Non ci conosciamo vuol dire che dobbiamo fare un bel lavoro per capire prima chi siamo noi stessi e poi per vedere un po' se gli altri corrispondono alle nostre idee che ci eravamo fatti. Effettivamente poi siamo anche delusi a volte, ma perché ci siamo fatti delle idee sbagliate, gli altri sono tutt'altra cosa rispetto a quello che pensiamo noi. Quindi non se conosciamo è un invito, conosciamoci. Andiamo fuori, vediamo qualcosa, ascoltiamo musica, parliamo, facciamo. E senti Herman, dato che magari la tua musica non arriva molto qui giù in Sicilia, spiegaci chi sono i The Groovy Monkeys. I The Groovy Monkeys è il mio gruppo, la mia band. Sono in sette, suonano da Dio, perché altrimenti non li avrei scelti. Lo sentiremo subito dopo l'intervista, come sono i The Groovy Monkeys. Continua pure, scusami se ti ho interrotto. No, tranquillo, è la band che mi accompagna sul palco ormai da 3 anni. Abbiamo all'attivo questo album di inediti uscito da 1 mese e mezzo fa e un doppio live, un CD live fatto l'anno scorso con tutti i miei successi, anche se di successi non ne parlerei proprio perché io suono principalmente qui in Veneto e non sono uno di successo di sicuro. Beh, allora, devo dirti due cose. Prima di tutto che il fatto che tu sia in Veneto non significa nulla, perché un personaggio con cui tu hai anche collaborato, leggo, è Sir Oliver Scardi dei Pittura Fresca, è conosciuto, diciamo, ampiamente in tutta Italia, diciamo, anche grazie alla partecipazione fu Sanremo 92, cos'era, 94, adesso non ricordo neanche, sì, 96, una decina d'anni fa, sì. forse quando suonavano gli Elio, che poi ha anche risuonato con gli Elio, ha fatto un pezzo, esatto. però apprezzo molto tu che fai il rap, che ti appoggi ad una band dal vivo, perché molti che fanno rap invece si appoggiano a delle basi dub. Come mai questa scelta? Beh, l'ho fatto per 20 anni, ho avuto il DJ che anche saluto, DJ Tech, ho fatto i live sempre con lui, però l'esigenza di suonare dal vivo a 41 anni era fortissima, quindi mi sono buttato a capofitto su questo progetto, perché i suonatori sono veramente validi e riproducono fedelmente quello che volevo, quindi non c'è nessun problema ad avere una band in carne ed ossa anziché un solo DJ dietro. Penso sia un'esigenza di crescita. È un passo avanti, un passo che caratterizza, secondo me, chi fa rap rispetto agli altri, rapper che si appoggiano alle basi. Uno di questi, Caparezza, col quale tu vai a presentare il tuo nuovo singolo, diciamo. Esatto, il singolo si chiama Super Ebete, esatto. Beh, non so se si capisca cosa significa super ebete, ma sono due parole, super e ebete. Guarda, direi di sì, però non lo indirizzare a me questo singolo. No, indirizzo al mio regista che ride dietro il vetro. Io parlo al super ebete che c'è dentro di me, perché ne abbiamo tutti uno dentro, è un supereroe inconsapevole che vive dentro di noi, che quando tu passi davanti a una vetrina o ad un prodotto che è in offerta, lui parla al posto tuo, ti dice compralo, prendi l'occasione, spendi i soldi, dai una mano all'economia. E quel super ebete non si mette mica il mantello, tu non lo riconosci che è un supereroe, però fa quello che deve fare, quindi salva l'economia al posto tuo, però l'economia è salva, ma le tue tasche restano vuote, e quindi è un supereroe un po', diciamo, da tenere sott'occhio. Diciamo che Monti è il super ebete per eccellenza, possiamo dirlo? Può essere, tu non ti sbilanci, noi lo diciamo, guarda, noi ci sbilanciamo, possiamo dirlo. Senti, ma anche per me allora, va benissimo, ci siamo trovati. Senti, l'intervista dovrebbe, non dovrebbe tantissimo, perché siamo quasi in chiusura, il programma oggi va in fascia veramente ridottissima. Vuoi darci le date del tuo tour, dato che vedo che farai 25 date? Beh, andate su Facebook, lì le trovate tutte, digitate Herman Medrano and the Groovy Monkeys, Herman scritto con l'H, dovete però fare un po' di strada, dovete venire qui in Veneto, perché attualmente siamo in Veneto. Ci ascoltano ma scendi in Sicilia, no? Scendi anche in Sicilia, dai. Ma dai, scenderemo. Il mio sassofonista è di Catania, tra l'altro, quindi... Perfetto. Vieni a Palermo, ti portiamo a Piazza Garraffello. Infatti, sì. lì c'è un pubblico che... No, guarda che è una yard famosissima in tutta Italia. Piazza Garraffello a Palermo è sicuramente una delle piazze più corpose per l'ambiente reggae e rap nel panorama palermitano. Quindi ti invitiamo... Stavo dicendo che ho un altro siciliano nel mio disco, che è Roy Paci, quindi ho fatto il bis. Vediamo. Tra l'altro vedo con quelli con cui hai collaborato, ce ne sono veramente tantissimo: Caperezza, Piotta, Roy Paci, Scardi, appunto, Balasso. Ce ne sono tantissimi. La cosa che ci fa piacere soprattutto è che la tua casa di produzione è La Grande Onda. In un programma come L'Onda in Onda, e quelle Piotta ci ha regalato un pezzettino di sigla, diciamo, ci fa molto, molto piacere. Com'è stata l'esperienza con Tommaso? Assolutamente positiva. Si ha sempre un po' di timore, perché si va a lavorare un po' più a un livello un po' più alto. Però è stato fantastico, non c'è stato nessun problema, anzi ci ha dato veramente una mano ad essere un po' più visibili qui nel panorama musicale, quindi grazie. Noi non possiamo che ringraziare te invece per questa intervista, e ti auguriamo un grosso in bocca al lupo alla lupa di Roma, e ovviamente ti ringraziamo per essere stato qui con noi, e lanciamo il tuo pezzo che ci andiamo ad ascoltare, Super Ebete, quindi te lo possiamo anche dedicare, Super Ebete, dato che è quello che è dentro di te, è dentro ognuno di noi. Sì, lo dedico a me stesso, e parlo un attimo con lui. Ehi, Super Ebete, stai buono un attimo, perché mi hai creato già grossi problemi. Io parlo col mio, però fuori onda magari, perché gliene devo dire un pochettino. Allora ci ascoltiamo Herman Medrano e The Groovy Monkeys, Fisio in Caparezza, Super Ebete. Grazie tantissimo Herman, ci risentiamo. A voi, grazie. Ciao. È una missione per Super Ebete. Assurdi e fa tutte raccolte punti, piace crisi economica, Super Ebete interviene per armadio che si strapiene, ma sta giacca che sta bene, senza neanche apparire clan, Super Ebete ti aiuta, commerciante sorridente, missione compiuta, parafora, è il tempo che disemmona, sta a casa, ma guarda che roba strana, Super Ebete si casa, e che la missione da compiere, imparò il povero, un amico carrossiere, un parco macchine da rompere, mio dai, con Super Bravo. Tutto, e ti nota che parla, e di solito fa del tutto, e come lo fa se sa sbaglia, Super Ebete super top, si manchi che cocco sopra sotto la domenica, metà in affa la coda per lì per coppa, più fighe con un yuta coppa, con la bomboletta kill da coppa, citrus beer, poggio fra che non si la chiangia la caraba nera, mira, mira dai con super tra, Super Ebete sei, Super Ebete sei, mira dai con super tra. Super Ebete un

torniamo in diretta, sempre con l'onda in onda dagli studi di Radio Panorama. Io sono sempre Andrea. E allora, è di poche ore fa, forse un'oretta fa se non sbaglio, la notizia dell'espulsione della senatrice Gambaro dal Movimento 5 Stelle con la votazione online. Come sapete, il Movimento 5 Stelle aveva rimesso durante la riunione di qualche giorno fa la decisione alla rete, soltanto che gli iscritti al portale di Grillo, cioè gli aventi diritto a votare l'espulsione della Gambaro, erano 48.292 secondo i dati che sono riuscito a reperire online. Hanno votato in 19.790. Ricordiamo che alle elezioni il Movimento di Grillo aveva ricevuto circa 9 milioni di voti, quindi ha deciso una maggioranza veramente ristretta, ma l'astensionismo nel sito dei votanti è veramente enorme, cioè ha votato a favore dell'espulsione della Gambaro il 67%, però degli aventi diritto ha votato soltanto il 27%, quindi c'è un 73% di persone iscritte al portale che non ha votato. Insomma, i numeri sono veramente esigui. Avranno avuto problemi al computer. Probabilmente. ma una notizia, questa è una notizia ovviamente che riguarda la democrazia all'interno dei movimenti, che riguarda la democrazia all'interno del nostro Stato, all'interno della politica, ma non possiamo ovviamente non dare una notizia di uguale importanza. La Squillo è troppo brutta, lui chiama la polizia, non mi piace, non la pago, è successo a New York. Ma New York non è come qui, insomma, non è come qui, cioè, sono più esigenti. Certo, volevo segnalare una violazione per una vendita di beni. In questo modo ha esordito un cittadino al 911, il numero americano della polizia. Qualcuno ha scritto 999, non si sa perché, per denunciare una vendita impropria. La prostituta per cui aveva pagato era brutta. E che ci poteva fare? Cioè, se è brutta, quando è brutta non la paghi. L'uomo ha chiamato dicendo che la donna in questione aveva fornito una foto sua e non lo aveva attirato a sé con l'inganno. In tutta risposta la polizia ha sottolineato al cliente che la prostituta non aveva commesso alcun reato, mentre invece disturbare la polizia e allertarla per futili motivi lo era. L'uomo è stato successivamente individuato ed è stata recapitata a casa una lettera di ammonimento. E vabbè, gli hanno detto non chiamare più la polizia. Però scusa, se lei non aveva il cartellino. Guarda, scusami, è vero, 999 è il numero americano della polizia, mentre il 911 è il numero delle emergenze. Ho sbagliato io, sono... Però, vedi, cioè, se lei non aveva messo il cartellino non si effettuano cambi. Lui ha ragione, cioè... La conf qualche cosa non ci sarà a New York. La conf prostituta. Non lo so, è possibile, dovremmo chiedere. Invece c'è una notizia di, diciamo... quasi uguale importanza, vi ricorda dalla pubblicità quella, no, delle chewing gum, dei ragazzini che si infilavano nella fogna per col gesto mangiando la chewing gum, no, usciva il fiato molto forte da sollevare la gonna alle ragazze che passavano su. Ecco, una cosa simile è successo in Giappone. Un uomo giapponese di 26 anni è stato beccato mentre sbirciava sotto le gonne delle donne che gli passavano sopra, sdraiato dentro ad un canale di scolo largo 30 cm, dentro una fogna praticamente. L'uomo è stato arrestato per voyeurismo dopo essere stato intravisto da una donna che ha dichiarato di aver notato qualcosa tipo un occhio che si muoveva dentro. Ah, cioè una non nota un uomo dentro un tombino, nota l'occhio, no, che si muove, l'occhio, capito? L'occhio che si muove dentro un tombino, quindi... Cazzo, proprio cecata. Sono giapponesi. Sì, dentro intercapelli nell'avviso. Con l'aiuto di un passante sono riusciti a capire che era davvero un occhio appartenente ad un voyeur. A quanto pare, dopo aver rimosso la grata di uno scolo ai lati di una strada, è strisciato per 20 metri attraverso lo spazio largo 30 cm e profondo 45 cm, fino ad arrivare nel punto dove passano molto frequentemente studentesse e impiegate, usando i buchi di ventilazione dello scolo per sbirciare sotto le loro gonne. Il voyeur ha ammesso le sue colpe, anche se è curioso che abbia utilizzato questo insolito ma soprattutto scomodo trucchetto al posto di quelli più classici, come ad esempio la telecamera nella scarpa. E sotto la notizia c'è un video effettuato con la telecamera nella scarpa per spiare sotto le gonne delle studentesse giapponesi. L'uomo si chiamava Calato Catitalio. Sì, Calato Catitalio, esatto. Ma invece, se questa notizia era un po', diciamo, violenza sulle donne in maniera non fisica, reale, quella una più aggressiva come lo stupro si può prevenire con il nuovo rimedio, ovvero le calze pelose.

Trento. Secondo la questura, i trentini arrivati trotterellando erano solo 11. Perde il passo, strage al corso di Zumba. Un uomo di 198 kg di Torino è indagato per omicidio colposo dopo aver travolto e ucciso 3 persone durante una lezione di Zumba. Il GIP ha inoltre emesso un'ordinanza restrittiva che lo obbliga a non prendere più velocità in luoghi chiusi. Sport. Atterrato su Urano il pallone calciato da Baggio durante USA 94. Scandalo in TV. Alle spalle dei protagonisti di un film pornografico spuntano le immagini di un telegiornale. L'episodio è particolarmente grave perché dal labiale del conduttore è evidente che la notizia riguardava un evento culturale. Animali maltrattati. Costringeva il suo barboncino a vedere Porta a Porta. Felipe Massa perde 2 posizioni nella fila alla cassa. Il pilota brasiliano è retrocesso dal 5° al 7° posto a causa di un'incertezza sull'aroma del deodorante per la macchina. Nasce l'azienda che noleggia donne incinte per saltare la fila. Boom di richieste. Firenze, padre orco, costringeva la figlia a tifare per la Juve. Questa era l'ultima notizia dal TG Lercio a cura dell'Onda in Onda. Ci risentiamo la prossima settimana. Ebbene, rientriamo in diretta dopo il TG Lercio. È sempre bello ascoltare le notizie degli amici di Lercio.it. E invito a visitare e a diventare fan della pagina di Lercio.it su Facebook e visitare ovviamente anche il sito Lercio.it. Va bene, questa puntata in forma ridotta finisce qui. Noi vi salutiamo la prossima settimana per l'ultima vera puntata, l'ultimo speciale. Tra l'altro ci sarà anche Marco dei Film Brutti con un film brutto specialissimo. Lo contatteremo e lui ci ha già dato l'ok. E sarà con noi presente Immanuel Casto al telefono, quindi per tutti i fan della Cappella e per tutti i fan di Escort 25, insomma, rimanete, restate con noi, anzi veniteci ad ascoltare giorno 26, prossimo mercoledì. Va bene, allora, questo era tutto dall'Onda in Onda. Lui era Boom là dietro, io sono Andrea e ci salutiamo, ci ascoltiamo di nuovo il pezzo di due pezzi ascoltiamo Piotta e dopo il gran pezzo dell'artista Erma Medrano. Ci è piaciuto tanto e ve la facciamo risentire per la conclusione, quindi ci vediamo la prossima settimana. Ciao. Sexy. Ciao giovani amanti della commedia sexy all'italiana. Questa è dedicata a voi da Piotta alias il Giaguaro. Con la mossa del Giaguaro tutti sciogli piano piano. Con la mossa del Giaguaro prendi questo frutto amaro. Con la mossa del Giaguaro tutti sciogli piano piano. Con la mossa del Giaguaro prendi questo ritmo in mano. La mossa del Giaguaro come zampetti perfetti, movimenti sul fianco in alto e in basso, il tocco dai collasso come miele appiccica, nel sesso mizzica, se pizzica, se muzzica, allora sì che è fantastica, niente plastico, labbra al silicone, ma tette sole, febbre dell'amore come buscaglione, il dritto di Chicago, suscito passione con la mossa del Giaguaro e bravo, mamo come te paro, para del culo da river Giaguaro, me te sciogli in mano, te sciogli piano piano, a cottura lenta, il piatto è prelibato, il Giaguaro con sta mossa è troppo forte, chi bastona primo bastona due volte. Con la mossa del Giaguaro tutti sciogli piano piano. Con la mossa del Giaguaro prendi questo frutto amaro. Con la mossa del Giaguaro tutti sciogli piano piano. Con la mossa del Giaguaro prendi questo ritmo amaro. Con la mano sono Giaguaro, son Lazzi, io non lavoro manco se m'ammazzi, viva la Bernarda, chi tocca e chi guarda, scalda quel gran pezzo dell'Ubalda, bamba, disco samba, un po' di rumba, arrivar Giaguaro, un urlo nella giungla, muovi la mano, giovannona coscia lunga, piedi più fianchi e palla questa rumba, come Ramba, stile pornografico, mascio Piotta, muscio decamerotico, entro, esco, non vengo presto, meglio un ritardo che il tuo pretesto, stress, lavoro, impegni, sii più onesto, prima o poi te lo buttano in del posto, pacco, doppio pacco contro paccotto, occhio malocchio per sembrare finocchio. Con la mossa del Giaguaro tutti sciogli piano piano. Con la mossa del Giaguaro prendi questo frutto amaro. Con la mossa del Giaguaro tutti sciogli piano piano. Con la mossa del Giaguaro prendi questo ritmo amaro. Pischelle, belle, io giovane ribelle, coi tatuaggi incisi sulla pelle, a pelle. Il giaguaro è nei paraggi, assaggio, non assaggi, miei massaggi, mando messaggi coi cellulari, anche a tette grosse come Lolo Ferrari, io duri e compari, flamine e corveleno, roba coatta, corre come un treno, come Montagnani, dimmi dove vai, se il vizi e tu non ce l'hai. Tu come Corrado, l'amico del giaguaro, dedicato con affetto a Gio D'Amato. Anfami, dedicata a tutti i giaguari, mo siamo tornati e non se ne andavo più via. Prendimi poi mano col giaguaro, col giaguaro. Prendimi per mano col giaguaro, col giaguaro. Prendimi poi mano col giaguaro, col giaguaro. Prendimi per mano col giaguaro, col giaguaro. Con la mossa del giaguaro tutti sciogli piano piano. La musica che preferisci. Radio Panorama. Musica allo stato puro. Questa è una missione impossibile. Assurdi e fa tutte le colte punti, via di crisi economica, super Ebet interviene, per l'armadio che si strapie, ma sta giacca che sta bene, senza neanche fare reclam, super Ebet ti aiuta, commerciante sorridente, missione compiuta, parafora, è il tempo che dice mona, sta a casa, ma para che roba strana, super Ebet si in casa, e che la missione da compiere, imparò il povero, un amico carrozziere, un parco macchine da rompere, via dai, con super tra, super Ebet, sei super Ebet. Se dispetti, super Ebet sa tutto, e ti nota che parla, e di solito fa del tutto, e come lo fa se sa sbaglia. Super Ebet super top, si ma chi che cocco, sopra stata la domenica metà in affa, la coda per l'ipercoppa, più fighe con un yuta coppa, con la bomboletta, kill da coppa, citrus beer, poi c'è fai che non si la chiangia la caraba nera, mira! Mira dai, con super tra tra, super Ebet, sì, super Ebet, sì, sì! Mira dai, con super tra tra, super Ebet, sì, super Ebet, sì, sì! Solo i vecchi un sacco di puttanetta. Quando parla di politica, da pallone scappatino. Fallano spaccati dalla sua mutande. Rindo bandito. Se ne me fa da Superman, super Rebel. Tenendo in raggi X, me fisso top. Superman.